14. Mi ha trovato una matassa, erano di 30-40 metri, ho giocato minchia, dai, dai. Allora va bene, RGC 48 dici. Sta vendendo i suoi cosi, sta vendendo Fusaro, i PL buoni, era ora che le buttava, si rifatte il backup però. Era ora che li portasse con l'imbacchilite. Beh, quelli già sono buoni. Chi le sta parlando? Fusaro o CBC? Da Fusaro ci sono, io li ho comprati lì. Se mi fate pagare 3 euro l'uno, però non manco un pelle come ci si deve. Io ce l'ho avuti, cavolo, andavano con una meraviglia. E beh, almeno quando salti non si scalda e non si scioglie la plastica, cioè va bene. Non lo so perché hanno avuto molte proteste, caro Egitto. Aspetta, suono il telefono. Guarda. No, io vi rispondo dopo, sto finendo di cenare. Ok. Va bene, claro. Buonasera, buona continuazione. Già, vi sto ascoltando in lontananza, dopo. Ok. Via, capa. Adesso, via. Ha suonato il telefono. È della Sara che ha toccato. E cos'hai? Perché mi stai telefonando? La musica è gentissima. Eia, lo telefono. Provo a scogitare qualcosa. Mettimi in una posizione che poter modulare col cazzo. L'unica cosa è quello palmare. Quello sì che ci arrivo già con il cazzo a modulare, ma non c'ho la voce amplificata. Vabbè, però. Però, cavolo. No, io uso i... Allora, uso i palmari, uso, perché molte volte cuccato mi viene meglio. Poi io non è che c'è tutto questo posto di avere una scrivania, una cosa. Quindi, se mi trigo, andava bene. Ma io mi sono fatto proprio il mobile, come ho voluto io, capito? Però io mi sa che lo modifico. Da questa altezza taglio e lo faccio di sbiecco che va verso il muro e lì ci metto i baracchini castrato dentro e le altre cose, sì. Ora quando sto bene anche non ce la faccio stare a fare molte cose, ancora sono in convalescenza. Purtroppo è così. Ma è piano piano, no, io non è che ho molto posto di mettere. Infatti ho una radio più grande, l'ho dovuta mettere, io già ce l'ho, c'è il comodino grande, l'ho messa lì. Perché se no non ci sarebbe stata. No, io sono il mobile che ho fatto io. 1,20 m alto. Anzi no, questo è 1,40 m, da dove sì. 1,40 m, profondità 40 e di larghezza fatto 90 cm, perché poi c'è la finestra, quindi ho fatto giusto il muro. Io volevo fare la messolina qua, poi ho detto vabbè la goccia in occhi, la goccia, c'è un apparecchio un po' più grande e non ci stava. Ma comunque il tuo comodino già mi è stato utile. No, io ho fatto allora, c'è il ritorno di sopra, un altro ripianto c'è un baracchino e altra roba, altro baracchino, poi ho una scortola a sinistra con vari ripiani e ci ho fatto una scarpiera. Poi c'ho 1, 2, 3 e 4. 4 ripiani più piccoli. Io ho tanta roba sotto messa e il ripiano che praticamente vi sotto un baracchino, c'è lo sportello che si apre e io ci appoggio il microfono, ci posso appoggiare quello che vuoi, se devo saldare qualcosa, tipo un tavolino l'ho fatto. Quando mi serve più chiudo e non vede più niente. È fatto bene, è fatto. Capa, è fatto troppo bene. E io qua un pochettino. Sai, però deve inventare qualcosa, deve inventare per essere un po' più capito, deve inventare qualcosa. Aspetta un attimo che mi prendo una bottiglietta di acqua dentro. problema. Eccomi qua. Ebbene, nessuno è entrato. No, poco fa è entrato Claudio e poi non è entrato altro nessuno. Hai detto che c'è scopo, stavamo continuando a cenare, guai. Ebbene, che già entrava dopo. Sicuramente. Allora sai da quando io ho messo la carta stagnola, ti ricordi che me l'avevi consigliato anche tu? Non ha fatto più niente, non ha fatto, perché prima ci interrompeva, rompeva le scatole. Ma che cosa? Nel filo. La carta stagnola nel filo, cioè? Allora, c'era il fusibile che non faceva bene massa, te lo ricordi? E ci ho messo la carta stagnola, dalla volta non ho dato più problemi. No, non devi fare così, ma stai scherzando. Con toccata. Allora, quello che fa il contatto, il filo da una parte all'altra, c'è una molla e ci sono i duttori. I duttori devono fare contatto, se non fa contatto c'è il filmato di miglio. Ma il fusibile vuole quello, se è 2 o 3 ampere o 5 ampere. Quello devi usare, se tu metti la carta stagnola, stai mettendo, è come se metti un fusibile da 23 ampere, ma stiamo scherzando. Tu non usare il baracchino, eh? No, non ho fatto. Normale, proprio poter modulare con il cazzo. Scappa, hai detto anche Rubiglio per la ginocchi? Ce l'ho qua. Aspetta. Come c'è questa cappetta? La uso qui una cosa, già. A chi mi cammina andando, ma dico così. Oi. Troppo forte. Cavolo. Qua ce l'amo. Cappa. Ecco qua, no, dovrebbe andare bene, riesci a vedere. E il microfono, cosa ce l'ha? C'è abbastanza, come si dice? C'è abbastanza morbido il filo. E c'è il microfono originale, è messo. Sì. Ma troppo, io ho fatto, ti guardo così. Tutto, la ricetta del loro, solo centinaia, tutto. È un zombo. Aiuto. Cavolo, è veramente morbido questo filo, adesso tirava a voce. Vabbè, avremo. Chissà cosa cavolo gli è pigliato, bro. Da fare il contatto. Ma l'ho rifatto da poco, neanche gli saganto. Comunque io ci trovo un cavo un po' più lungo, me lo metto qua. Guarda, questo che sto utilizzando io è morbidissimo e funziona bene. Lo so, molte volte. Oh, questo che ho io, cavolo, è morbido. Ah, si mosa canticchiccio. Vabbè che qua c'è un alimentatore. Un po' così, dai. Cata simbosa. Ma quel, diciamo, il capo che c'è morbido l'avevi preso a parte? No, era con questo microfono, sul densi. Per caso è celeste? No, è nero. Però cavolo, è bello, come fa a stappare? Non so buio. Perché c'era un MP2 che era celeste, il capo era quando fanno spiralato e era pozzo. Poi se ne pensano, è un po' più lungo, se lo penso. Capo. No, questo qua è fatto così, ha fatto. Di quelli molto, non è di chi si secche, cioè che devi tirare, ecco. Questo invece è fatto diversamente. Si è fatto così, morbido. E quindi niente, c'è la sedia vicino, dai, dico questo. No, allora mi ci sono bucato perché ho cambiato il microfono. E io c'ho qualche microfono da installare per un omaggio qua, no? Dovevi avere anche lo spigliotto, ma non ce l'ho, no? Lo devo procurare. Tanto lo picchio. Allora, ti ha fatto l'altro microfono, come va? Lui ha quattro poli. Cappa. Io ho preso la Fusano l'altro giorno. E intanto devo andare per tirare il coso. Mi piede il bacchilizzo. Sai che faccio dove vado? Cappa. No, sono contento, guarda, che li ha portati. Sono veramente contento. Beh, sono migliori, dai. Sì, io ce li avevo, cioè quando ero diato dolce, non mi ha fatto mai problemi. Sono ottimi isolatori, bacchilizzo. Sì, ce li ho avuti, cioè, qua ci ho messo gli altri, però quelli che ci avevo io erano più buoni, erano di quelli ultimi che stavo facendo, perché in teatro in pratica, come cavolo si chiama, ci sono sempre stati alla fin fine quelli più economici, però quelli che avevo io erano migliori. Ma io la chiedo, se tempo fa c'ho dei bacchetti a punto, se finire fatto. No, ho fatto prendere due, ho fatto il diritto di scorta, no, che adesso vediamo. Forse sono mezzo intenzionato a cambiare il cavo, perché ho trovato quello che volevo io. Ma guarda la finanza. Legato, tutti i bicchetti qua, solo serino qua. Ho fatto solo una qua. Perché devi giocare per forza a parlare? Tutto gente rossa, tutto qua. Cosa è successo tu? Non so, ho scattato il due cilli e stavo perdendo il nero, capito? E una gabbia a me un centinaio, cosa che ne può ospitare, non so, massimo 10, non di più. Niente, io ci devo pure in mare l'animale. Infatti la finanza deve liberarsi, come ti ha detto la gabbia sul cielo, fa suicidio e parati, ragazzi. Che? Così non voler liberare gli animali e pensare a loro saccoccia. Cioè io dico che, cioè, però bisogna anche, li vuoi vendere, li vuoi mettere, però cavolo, l'animale va trattato bene, non è così, non che si fa. E anche a me piace, non mi piace che uno fa parlare gli animali, che poverini, che poi uccellini, che male fa, lo fa tuo, no? Metti, fischio di tutto, capisco, questo che pensa. E allora, come quello che era uscito a Striscia la Notizia, che pigliava e, come si dice, metteva, cioè, gli maiali li teneva male, in condizioni pessime, cioè, cioè, quello puoi anche ammazzare, però quello che vive ci vuole anche il rispetto degli animali, cioè deve essere tutto igienico, pulito, cioè devono essere accuditi alla perfezione. Lo so, ne vedo se c'è una fischia, perché tratta male gli animali. E quando va, se c'è una fischia, dici, mi devo ruccio, li prendi, li fuori il naso, se le faccio cucine a casino qua. Se l'è stato il chivio, invece mi ero girato, adesso non si può venire, se l'è stato io mi ero girato, e adesso mi sono ruccio a capo, mai. Purtroppo loro, per un'etica professionale, no, non possono. Se io sono stato là vicino, sarei qui da prendere la cura e stare in acqua, dai, e mangiati l'orologio. Sì, cioè, pure lui l'aveva fatto così, l'aveva fatto pure di peggio. Cioè, però loro non lo fanno per una questione di professionale, cosa, perché poi magari di perdere il posto di lavoro, capito? No, so che non si possono girare. Come io quando fanno lavoro a scuola c'è uno che rompe le palle, non mi posso girare, capito? Però io lo tengo pure e palla. Sì. Va bene, tu dai, che mi giri, mi guardo un po' in televisione. Poi ci sentiamo domani, dai. Stammi bene, poi proseguo, se c'è qualche dubbio, sono compagnia. Ci sentiamo, buonanotte. E io tu ne vai, ci sentiamo. Dai. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, tutto lì, ciao. Ci sentiamo domani, ciao. Ehi, qua, dai, ci sentiamo domani. Ciao, ciao, tu, dai. Sto guardando un po' di TV qua, anch'io. Niente, dai. Ok, buonanotte a tutti, già sono qua in ascolto. Ciao, ciao. Ehi, ciao, ciao, buonanotte. E sarò pure io, va. Ciao a tutti, buonanotte. Sì, poco fa, non mi guarda, me lo lascia acceso. Ha detto, se non entra nessuno, io ho chiuso, invece poi c'è entrato a due. Sì, stavo parlando con Tonino poco fa. Ah, è entrato Tonino? Sì, è entrato. E ora se n'è andato? Eia. Cos'è Dolgoldensi? Bene mi senti? Oh già! Gianni! Aspetta! Io già sono qua già! Aspetta un attimo! Io non ti preoccupare già, già sono Ghinoghi! E allora tu? Non recuperendi? E Antonio si è cuccato, mi pare! Oh, io sono Ghinoghi! Ah, qua sì! E ero giù, mi stavo mangiando un paio di yogurt e poi ho sentito Gianni. Ma a dieta c'è anche tu. Ma cosa dieta? Io mi mangio che mi piace. No, pensavo che come sostituto alla cena stavi mangiando yogurt. No, Rosa. No, mi piace un po' di mangiarli. Mi piace. E fai bene anche tu. Ti piace, pure a me piace, ma me ne mangio mezzo chilo di yogurt alla volta. Scappa, no, me ne sono mangiato due vaschettine piccole. Ho mangiato una a banana e una al kiwi. Se vieni vicino a casa lo yogurt lo paghi un bel poco, anche quello da mezzo chilo. Lo paghi 75 centesimi mi fa. Ha già compreso, chi se vede a casa doia. E il discount, là, il discount. Sì. Ho preso quello dell'Arborea, sono buone. Cavagava, sì, già vanno bene, vanno bene. Ola, ola, ola, ola. Picchi negativi, ciò. Cos'ho, picchi negativi? Ah, senta che mi hai messo, prova. Guarda a vedere se c'ho picchi negativi. No, non si muove la freccia già. No, bella, senti da est. No, vabbè. Cavagava. Mi devo far regolare quello Smith. Ma lascialo così già, ma cosa ti ne affutti? Ma cosa ti ne affutti? Lascia perdere. Va bene così, se non siamo troppo pignoli. Anch'io ne ho radio che danno. Non mi ricordo i segnali, do giusti. Ma se ne affutti. Ad esempio qua tra il Galaxy e il K c'è una leggera differenza, ma io so come arrivi al K, quindi ti do quel segnale. Ma tu lo sai quanto sei adesso? Santiago 8. Io so che non sono Santiago 8. Io al Galaxy arrivo 9:30, quindi non me ne affutti nulla. Cosa mi interessa? Già va bene, già. No, ma deve segnare quello che è. Se trovo qualcuno che me lo fa, glielo porto. Glielo faccio fare, dai. Perché io sono pignolo, lo sai. No, tu devi fare, devi sapere intanto qual è il trimmer da toccare dello Smith, perché sicuramente c'è, capito? Te lo devi fare tu lì, mica te lo posso fare io qua, no? Io c'ho un segnale diverso da tu. Ma quanto è rotto, non può esistere veramente. A me mi sentiva ovvio, cioè, ma non può esistere assolutamente. Capito tu, ma se non sai qual è, ti metti a pasticciare, cosa fai? Fai solo un casino. Ci deve essere uno che lo sa fare, che sa qual è il trimmerino, glielo dice a Gianni, capito? Se lo fa lui lì con l'antenna sua attaccata, non è che lo posso fare io qua, no? Cappa, e beh certo. Come regola però ci vorrebbe il coso, come regola c'è avuto uno strumento è fatto così. È un bel strano, non capisco perché segni così, beh. Se no per farlo bene ci vuole la sonda, cioè ci vuole lo strumento per poter fare la taratura, però ti ripeto, io non sono in grado di poter fare certe cose. Perciò no, non ti posso aiutare già, ci vuole uno che abbia l'attrezzatura o uno che sappia qual è la resistenza variabile da poter spostare leggermente, regolare leggermente, che poi non si regolano così, si regolano a strumentazione reale e poi ci sono dei passaggi da fare, quindi non lo so già, devi cercare qualcuno che te lo possa fare. Sto già guardando su internet, non c'è problema. Allora, ci abbiamo internet, basta. Controlla. Metti schema blu, chi Cobra, come è che marca il tuo Cobra, quello lì. Lo fai, te lo fai tu. Ciao, fai guardare il trimmer e come fare. Non lo so, beh certo, qualcosa c'è che non va, cavolo, quei segnali lì no, non esistono. Sicuramente. Non capisco perché sia così. Vuol dire che si è spostato molto. Capito? Io ad esempio il gas è molto facile, avevo i segnali bassi, me lo sono regolato, che è tarato da strumento, me lo sono regolato uguale al K. Adesso siete tutti perfetti. C'è un minimo di differenza, ma da radio a radio cambia, non è che lo possiamo fare preciso, però va bene. Ho fatto. Ho fatto non bene, no, di più. Ma lì del gas abbiamo più o meno tutti, sono 5 resistenze variabili tutte in fila, e trova proprio il manuale, capito? VR13 lo smitter, VR, capito? Ti dà tutto, VR1, VR2, VR3, tutti te li dà, sono tutti segnati, quindi non c'è da sbagliare. L'ho aperto un attimino, cacciavite induttivo, e l'ho portato allo smitter al valore suo, perché era basso. Non so perché, neanch'io, ma io l'ho comprato così. Lo sono regolato per me, poi che si abbia gli occhi. Questo no, questo che mi ha dato cosa è perfetto, questo che mi ha dato pompogno, questo che ho preso la pompogna è perfetto qua, va proprio bene lo smitter. L'avrà regolato lui, hai capito? Se l'avrà regolato lui già sa dove mettere le mani, io no, baracchini, no, non mi va a vedermi di baracchini, perché io non sono venuto. Ti ripeto, il gas l'ho fatto perché mi ha mandato lo schema proprio Gianni, se no non ne avrei toccato, me l'ha fatta sempre. Capo, io sì. Allora che male vende un'offerta, ha dettata a V. Ti hanno fatto un'offerta? Per quale grande? No, questa. Ah, lasciatela stare. Anche a me mi sono già arrivate offerte per il Galaxy, ho detto, ma ti pare, io me l'ho comprato perché l'ho desiderato, l'ho voluto. Anche perché Gianni mi ha detto, vabbè, ci compra in vita, ci comprati un bel Galaxy, ho fatto così. E ora me lo torna a venire. E poi lo ritrovo così nuovo come questo, 200 euro. Non te ne danno 200 euro, capito? Non so, già rimane lì. No, ma cioè, lo sai cosa è? Che c'ho un pochettino nel. Praticamente anni fa, lo sai che io ce l'avevo già avuto però un'altra versione di questo qua. Cavolo, adesso che ne ho trovato uno che va veramente bene, tutto quanto, secondo te io me lo vendo, ma manco ci sto pensando, rimane lì, e non mi interessa proprio, soprattutto questo qua che funziona bene, cioè, sono rimasto senza io un po' di anni, l'ho tornato a rivelare e ti rivendo, poi molla, rimane tutto qua e basta. Si conferma, una volta che uno ha trovato la radio sua che le piace, io guarda, sai quante ne ho? Io 8, anzi 9 col patch, tutti in base, e sto usando sempre questo, addirittura ho staccato anche l'altra, anche il DAC, capito? Perché uso questo e basta, gli altri rimangono spenti, uso giù il touch, la magheti giamba, anzi la biglia e luci. Cappa, ho spassato per ridarlo a questo, perché lo volevo fermo lì, ho voluto utilizzarlo, mi dispiaceva un po'. E lo dovremmo riposare un po'. Si conferma, è così, già va bene, dai, non c'è problema, tanto un baracchino vale l'altro, non è che ci sono molti discorsi da fare, tutti escono bene fino a quando escono bene, credo come se la farà un uomo, ci verrà un uomo. Buona, confermo. sì, ma è così, così, fatta ma proprio a rubosa per ampere, questo usando con la 7 ampere con questo apparecchio attaccato a quello, ma si intende che lo fate, e io ho abbassato un pochettino il vatto, che lo fate andare. No, già va bene, no, io non ho più problema di se si rompono le radio, se lo devo mandare, mi domani mattina a parte il 4:30. a Monte Granaro e me lo faccio tutto riallineare, tutto fare tutto quello che c'è da fare, te l'ho già detto, non stare lì a cincischiare. Così a posto per altri 10 anni lui funziona. Che madre di Dios, capito? Molto bravo questo ragazzo, seppur onestissimo, ma ho preso una cazzata per il 140. E sono contentissimo, anche l'altro che ho venduto il 140, fatto da lui, ti dico che è a posto. Quindi se si sfascia qualcosa io solo devo mandarla, non devo chiedere più niente a nessuno, pago e ce la biglia e luce. E come fa? Quello è bravo questo qua che li fa. Sì, molto bravo, serio, onesto, anche con i prezzi. E modifica anche baracchini, li fa corte, ma fa anche radio HF, VHF, UHF, TV, tutto fa. Un laboratorio che è un amico di Luca, che ha conosciuto Luca Flipper, mi ha passato l'indirizzo, io ho avuto già rapporti di lavoro e adesso le sto mandando un po' di materiale anche ad altra gente, capito? Anche altra gente che ha necessità, che non sa dove mandarli, li sto mandando lì. Infatti a me mi tratta benissimo, non bene. Adesso mi trovo già imballato, già pronto nella porta. Domani mattina alle 9 alle poste, appena apre il servizio del patto, lo faccio partire 3 giorni ed è lì. Tanto parte venerdì, sabato lavora, GLS, fine. Fa venerdì e sabato, viaggia, poi si fermerà sicuramente domenica, martedì ce l'ha lì e lo mette sotto i ferri. Campo. Quanto anni virai, sa parecchio. Tu, 10 anni ce l'ho io il 430, 10 anni, non ha mai avuto una riparazione. L'unica riparazione è stata fatta qui a Sassari, è stato cambiato il display perché si erano bruciati gli ultimi decimali. Tolto quello vecchio, ho messo nuovo. E boh, altre riparazioni non sono state fatte. Ah, ho capito. È bello già, cavolo. E poi se idrati bene durano un sacco di anni, durano. Io sono molto attaccato a quello relativo. 440 purtroppo l'ho fatto fuori. Basta, ne ho avuto 12. Mi sono stufato, mi sono ripreso un bellissimo 140, poi ne avevo comprato un altro che era da mandare al centro assistenza, l'ho mandato, tutto bello allineato, compatto, nuovo, anche esternamente, e l'ho venduto. Questo lo stesso è a posto, 140 che ho, nuovo lo stesso anche esternamente, e basta, boh, non li voglio più, anzi. Sicuramente venderò anche questo 140, e mi tengo solo 430, non c'è problema, ne tengo uno di HF, tanto io non ne faccio più di attività, quindi basta uno, giusto per ascoltare, e nel caso devo fare qualche questione proprio a livello locale o Italia, o un HF che me lo permette, insomma. Anche se non è il massimo, però basta, boh, finito i giochi, baracchini e boh. Lampa, ho mandato un messaggio, perché non mi ricordo una cosa, se mi può rispondere. Sì, mi è arrivato adesso, aspetta. Grazie dell'informazione, ciao, ci ho capito. Ciao Vittor. Sì. Oh, tanta roba. Io dico tanta roba. Ciao. Ma Gianni che fine ha fatto? Gianni? Gianni, oh. Quindi, mi sta rigridando perché c'ho il vizio a Saravozzi. Gianni non lo so cosa stava facendo. Guardare il gioco. Non lo so. Dove andava, poi non c'è più inteso. Ehi, c'è qua. troppa guappa. Mi sono abbiocco come venendo, io Giulia. Io ho aperto, non ho riposato niente, infatti adesso sto un po' chiuso, non è che sto qua, sto guardando un po' di TV. Che abbiamo piazzato nuovamente la TV, tra l'altro che avevo smontato tutto, non mi credi? Mi ho fitto poco fa, mi fascettare, fare, oggi ho finito, ma invece buon viaggio, ma ne scrivo tutto. Vado a vedermi la TV di là nel salone e poi mi ci corco. Devo alzare presto, c'è qualche roba da fare in ufficio, volevo scendere agli punti a spedire questa radio, volevo risalire, portare il cane, andare a farmi un po' di spesa e vabbè, la mattinata già passa da... Vabbè, ma agli punti Claudio, come mai lì? Vado io agli punti da Francesco, che è un amico, la posta privata, pago meno e sono velocissimi. Capito? Spedisco tutto lì, anche lì mi ha detto Massimiliano, lui spedisce tutto lì, e vado lì, nei punti. Capa, io conosco a quello lì, conosco, che senso fa quel lavoro lì, sono bravi, la verità, fanno poste private, quello di via Porcheddu lì, cavolo, molte cose me le pago anche lì, me le pago perché le bollette, le cose, perché basta andare nella busta, mamma mia, io conosco questo qua. Vabbè, lì poste private, l'ho pesa, poi mi fa sempre lo sconto, anche l'altra volta era 19 euro, mi ha fatto 17, una volta 21 mi ha fatto 19, capito, no, non c'è problema, spedisco sempre lì, non ho mai vado sempre lì. Lavorano tramite la GLS, SDA, quindi sono velocissimi, sono i migliori. Capito, loro ritirano tutti i pacchi la mattina, poi passa il camioncino alla GLS, li porta in deposito e li spediscono, li portano a destinazione. Guarda, la GLS sono seri, sono, non fa vedemo di Bartolini, dei company, ma carità, lascia perdere. No, Bartolini non ci ho mai scritto niente. Io quando ho spedito le direttive, caspita che era 3,30 metri, piegate, chiuse, tutte proprio fatte, ho comprato un rotolo di cartone di quello morbido, tutte belle imballate, me l'abbiamo fatto con Luca. Flipper, ti dico appunto capolavoro, ho spedito sempre con loro, sono sceso, ed era, l'ho dovuto fare a 2,70 metri. Le ho dovute smontare tutte, volevo invece smontarle a metà, le ho dovute smontare tutte. Meno male il boom si smontava, se no era 2,50 più, no 2,70 più 2,70 e quindi non può superare i 3 metri, capito? Me l'ha spedito lui. L'ho spedito sempre con GLS. 3 giorni è arrivata l'antenna integra con tutto dentro la sua bulloneria, capito? Mentre il rotore e il controbox ho dovuto fare un altro pacco a parte, però l'antenna è fenomenale. Sì, è fatto bene, sì, è fatto benissimo. Non è che se è troppo lungo no, è un casino spedirlo, meno male che sei riuscito a smontarla. No, lui ha tutta la cena ossidabile, tanto la pick up ha voluto più fare dell'ultimo tempo. Smontata da solo, l'ho portata a terra e poi smontata tutta, tutta fatta a pezzi, con tutti i suoi imballi, segnati radiali per radiali, con i numeri, tutta la numerazione. Avevo sentito anche chi l'ha comprata e mi ha detto che una cazzata ci ha messo a montarla perché era tutta segnata, tutta segnata, l'ho data già pronta a montare, già con le bobine attaccate, le bobine ho lasciate attaccate, radiale per radiale, col pennello indelebile ho scritto le bande, capito? E quindi non c'era da sbagliare, poi gli ho dato tutto il manuale, gli ho dato tutto, tutto fa, ho spedito tutto con GLS, tutto quello che ho dato, capito? E sto continuando per radio, soprattutto l'ho detto sia il 140 che il 430 con GLS lo stesso. Tre giorni con suito 140, i tre giorni era lì e tre giorni poi a tornare sempre con lo stesso corriere. Ha fatto bene, che sono passati i seri, chi si? Oh, anche a noi quando ci portano i pacchi GLS, sono seri, sono veramente seri. Non capiremo di altra cosa, per carità. No, quei battoni li fate mon destra, fa pacchi grossi, pesanti, lui. L'unica per pacchi piccoli, sino a 20 kg, anche 25 kg. GLS SDA, sono il numero uno, c'è niente da fare, capito? Però ti ripeto, ci sono anche altri corrieri, c'è la TNT, ce ne sono tanti. Però tutti stanno scegliendo la GLS, vuol dire che ci sono, perché no? A che non ribono i BD, perché ogni volta con Bartolini, cioè, è un casino, non ribono i BD. Veramente, la gente, c'è gente, come sente, chi me lo porta il pacco? Bartolini. Non riordina manco la roba, dice, no, no, lasci stare, dice. Perché hanno avuto tanti di quei problemi, che la mi dai vasta. Purtroppo, se non sei serio, è un casino, Vabbè, io mi ricordo, quindi, io sono entrato a lavoro nel 91, dal 91, sì, perché quando, non sto dicendo, no, era a Cagliari, nel 96 sono arrivato qua, dall'89 al 93 io facevo quel lavoro, capito? Avevo la mia ditta, c'erano tre furgoni, facevo il Corriere Espresso, Marti Transport, capito? E quindi lo so come funziona. E avevo proprio l'SDA, lavoravo con l'SDA, con la TNT e con la Difarma. Io portavo le medicine, gli altri due che lavoravano con me, che uno sai chi è, Domenico Tarzanetto, te lo ricordo. Sì, non ho più sentito, come quando non lo vedo glielo dico. Domenico ha iniziato con me, avevo preso anche un camion per lui, poi io avevo fatto il concorso, avevo vinto, sono entrato all'ESAF, facevo servizio a Perfuas, quindi gli ho detto, o vi arrangiate voi con i mezzi, se no io vendo tutto. Domenico non se l'ha sentita, e quindi si è preso le patenti e è andato a fare l'autista, autista di articolati. Io mi ho venduto i furgoni, uno l'ho venduto a uno che ancora lavora in SDA, a uno che lavorava lo stesso, collaborava con me, non lavorava, collaborava. C'era un motocarro piccolo e faceva il centro storico, perché io col furgone non potevo entrare. Io ho continuato a fare farmacie, il giro mio della Difarma l'ho passato a un altro amico che è ancora in Difarma e i furgoni li ho venduti e basta, quindi già lo so come funziona, lo so perfettamente. E meno male se Macomari ha avuto il posto fisso, se no la Duca da ancora travagliare. Ma io i contributi me li pagavo tu. Io guadagnavo un sacco di soldi con quei tre metri. Dillo a Domenico, se lo conosci diglielo, se ti sto dicendo balle, non sono balle. Domenico con me, in quegli anni lì prendeva un milione al mese. E non era poco, no? Non era poco in quegli anni. Non era poco, no? Capito? Tu immaginati quando lui è entrato a fare l'autista, così, il primo stipendio che ha preso era 200 euro in più di me. Ma non fa zia che ci fa zia conmigo. Niagù ci fa zia. Ho articolato, ciucciù, è ore che non faceva. Lui a quell'ora, noi trovavamo alle 7, carichevamo le macchine e via, ci usciva in consegna. Alle 4 e mezza, alle 5 eravamo già in deposito con i rettili e via, tutti a casa. E doveva mangiare una travaglia forse d'ora. Sì. già ci lavorava, però si guadagnava pure, poi in quegli anni andava tutto più bene. Non è come il cavallo che mamma dai, dai. In quegli anni si guadagnava bene. E avanti. E dai, sono rientrato che mi hanno fatto una telefonata. Stavo c'era Midda. Già, c'era Midda. Beh, molla un pochettino, mamma mia. No, se proprio lo vuoi sapere, non era lì. Era un'altra donna, ma non era lì. Un'altra donna, mica glielo dico. Era la mia ex. Sì, Alto, ci guadagnava bene, io volete dire, non potevo lamentare, ce n'era per me e ce n'era anche per i due artisti. Tu di la domenica, se stava bene. Domenica oggi ho fatto mano io, mi sono venuto a Sassari da Giba cercando lavoro ed è entrato da Podda, allora c'avevo anche un mezzo lì che era fermo perché io non lo potevo guidare, un 6011 che ci voleva la C. Io stavo caricando delle cose che mi aveva chiesto un Guido Podda da portare, siccome io avevo le farmacie lì di Chiaramonti con le donne eccetera, mi ha detto se le facevo un paio di consegne lì in paese e le ho fatte. È entrato lui, stava cercando lavoro. La giornata gli ho detto, ma tu vuoi veramente lavorare? Mi diglielo, se ti conosci diglielo, se ti dice, se ti dice una balle. Ma poi sono venuto qui perché sto cercando lavoro. Era in Savattoli, pantaloncino, ma l'estate, Savattoli, pantaloncino e maglietta. Ma tu stai cercando lavoro? Sì, lo vedi quel cambio rosso? Sì. Che patente c'hai? La C, tu sei a posto. Guido, lo carichiamo il camion che viene con me a Olbia. I, manco io il patrullo. Ha caricato il camion e è stato tutto il giorno consegnando a Olbia. E dal giorno è venuto a lavorare con me, c'è stato un anno con me Domenico. Bello. Ho vinto il concorso e sei andato là, sono dove devi ancora travagliare con Faghi su della radio, devo ancora lavorare. Perché Domenico, cosa sta facendo adesso? Sì, però autista di articolato, però articolato guida, però non è più con la TNT, con un'altra società e fa Cagliari, mi sembra, fa Sassari Cagliari, aggancia e sgancia. Ma lui è di Cagliari, no? Di Giba, sì, l'ultima ruota del carro di Cagliari. KK, sì, perché ha l'accento per Cagliarità. Ma una volta era venuto in pescheria quando era ancora lavoro, era in pescheria io. E si è avvicinato al banco, mi ha detto che non sta più usando il baracchino, dice che stanno usando tutti quanti il telefono, quindi non ne ha nemmeno lui. No, ma io lo vedo abitato accanto a casa di mio genero. A metà latte oggi, proprio attaccato. Infatti è molto amico di Mariolino. Capito? Tarzanetto gliel'ho messo io, perché se si toglie la maglietta, tu non distingui se c'è la maglietta o cosa va. C'è una scimmia! Anche se autisti sono tutti qui in baro, Io ne conoscevo uno che si rasa a Valpero di Porto Torre, poi veniva a portarci le anguille, cavolo, e praticamente si ricavava la maglietta e c'aveva tutta la rasatura del pelo della faccia, ma forte però. Guarda, Domenico ci può dare la mano solo con Fortunato, allora, quando l'ho conosciuto io, adesso non è più così, ma Fortunato era una cosa allucinante, tanto mi va di arrivare. C'è una volta un amico, non faccio nome, adesso non ci stiamo più frequentando, ma è quando lavorava molto dentro l'Eri, che loro venivano lì al VCM a caricare i sacchi del PVC, capito, per portarli in continente, all'estero, eccetera. Cazzo, l'ha fatto a pentare i giuffi di Rubetto, già, gli ha messo l'elastico, l'ha fatto la coletta. Ma anche questo qua di Porto Torres era bello, lavorava al mercato all'ingrosso, portava la frutta, questa roba qua. Insomma era abiluso, avevo, anche nelle spalle ne avevo. Nelle spalle? Nelle spalle potevi girarli e punire l'antaro gabbo. Allucinante. Poi domenica troppo dopo, domenica però perché era bassottino, tubiroso, un bel dolore, era piazzato, si è ingrassato, ma quando l'ho conosciuto io era bello, bello tosto, e lavorava come un negro, sempre lavorato come un negro, un grandissimo lavoratore. Papà, prima lo sentivo sempre, già dal baracchino, quello con l'Eco Major. Quando partiva dalla Croce lo sentivo sempre. Adesso l'ho sentito più, l'ha tolto, E te l'ha detto Gianni, no, non è stato più usando, anche perché intanto i mezzi non sono più come quelli di prima, sono tutti elettronici, quindi devi stare attento a che si faccia la centralina di un camion di ghisci, sciodurori, ti guvano impiccati, costano un sacco di soldi. E poi ci sono molte società che non te ne fanno piazzare proprio perché puoi rovinare la centralina del mezzo, capito? Certo, ma a pesare la verità, a me che si dice cavoli, il cambio che si scendava nel bar non mi piace, quelli di prima erano molto più robusti, erano calarmati, adesso questi che sono usciti adesso secondo me non sono più come quelli di una volta. Tanto per tutte così anche le macchine, devi stare attento, se gli attacchi lineare alla macchina ti può far partire la centralina, lo sai? Sì, lo so, però già prima era molto, ma cioè, si accambia le macchine, c'era più robustezza su certe cose. Prima nel 127 lui vidi attaccava la batteria, poi lo stesso baracchino attaccato con due viti stavi andando. Eri non lineare, io che ti piazzia, non riesci più di andare. Io già perché mi avevo preso quella battimobile blu per fare l'impianto, perché ne avevo le palle piene con l'audio, non potevo fare niente, tutta elettronica. E quindi mi avevo preso quella lì da battaglia per andare a lavoro. E l'audio la usavo il fine settimana, capito? E lì c'avevo UHF, baracchino, di tutto va via. Ci pari alla macchina della Guardia di Finanza, che se andava in posto di blocco a saccaggia, che passavo, mi salutavano, ciao, a piedere il culo. Anche a me una volta sono andato dalla buon'anima di ad Alghero, di Pinangelo, e proprio all'incrocio i carabinieri mi hanno affiancato e mi hanno fatto il saluto militare. E che macchina c'avevi? Quell'Astra? L'Astra con la Ferrarca, mi hanno fatto il saluto militare, non mi ricordo se ero con Luca o con Chiere, se ho tutti arrediti. E proprio sollevavano la mano bene proprio a salutare, la mia era uguale, precisa, identica alla Citro, alla Saxo della Guardia di Finanza, mi era blu con l'antenna nera al centro, piccolina, la B10M della Comet, uguale VHF, e poi davanti avevo la frusta quella nera ma con la molla uguale a quella che avevano loro, precisa identica. Mi la metto io, cazzo, mi sono proprio via Pascoli, da Adamo, lì allora si chiamava Varadero, che dovevo andare in garage, e quando sono uscito al garage, non mi ricordo cos'è che dovevo prendere al garage, con Franco, ero Franco California, Rizzardi. Ho detto, attenzione, c'era la macchina della Guardia di Finanza, ci stanno controllando, fatevi dare lo scontrino dal bar, ma a me siete, ma è una macchina. Io la vi ricordo la sua su della Guardia di Finanza, porta via, gli ho detto, chi c'è la macchina mia, già Guardia di Finanza di vecchiani. Era uguale alla civetta della Guardia di Finanza, precisa identica. Sto dicendo, quando passavo, io figurati che scendevo in via Lomberto con quella macchina, scendevo in via Lomberto al senso contrario, fino a giù al mercato, non facevo giri a fanculo, giravo lì via Cosio, dove c'è, come si chiama, via, eccola lì, dove c'è la Banca d'Italia, no? Scendevo lì, da lì in via Lomberto, arrivavo all'altezza del dove poi giri per Marella, io invece da Dio dritto, un di passo di brano, e scendevo fino al mercato, a volte salivano i vigili, no, manco guardavano. Eri camuffato, per forza. Beh, la buon'anima di Giuseppe Carboni faceva così, con la bici soia. Scendeva lo stesso lì, attaccava la cena e ne farava. Albonesi! A Giuseppe, poverino, se lo conosceva. Amico mio di dall'infanzia. Amico mio di Gianni, Antò. Lo so, è morto male. Oh, mancante era. Era mancante, purtroppo. Mancanti, se faceva il giro quando c'erano le gare, dice che arrivava, che faceva il tempo più buono di quelli che gareggiavano. Guidando, Antò, bravo, Faceva la prepista a Miarelli, guarda che era bravo, Già lo so, lo conoscevo molto bene, no? Era bravo, a me diceva a volte, io qua vai e avviati, che rimango qua in postazione, vai, tu vai, io devo fare la prepista, vai, devo prendere i tempi, e pigliano due tempo, io rimango in occhio, io vai. Agno, Claudio, c'aveva quella voce. Ehi, agno, però, ciriti, vai, dinni, Giuseppe, vai, dinni, non la giovinia fammi ammazzare, vai. Io ho ancora i ritagli del giornale di quando ha avuto l'incidente, ci credo. Io non ce l'ho, ma già l'avevo anche visto, non ti preoccupare. Io lavoravo in quella zona, quindi stavo rientrando dopo le gallerie. Io c'erano ancora le macchine tutta ferma, la stradale, i carabinieri. C'era addirittura anche l'ANAS, ho detto, ma un ragazzo ci stesse, se si decide in cunetta, vuoi entrare, la mica era detto. Era la moto, mica, non parlava la moto. Io lo so, perché è uscito con amici miei, infatti non conto, sono tutta la storia io. Ha detto, quando sono partiti, questa tuta mi sta un po' stretta di maniche. Sai, adesso devo aver ingrassato, dice, mi sta un po' stretta. E vabbè, dice, la tuta di pelle che ci ha messo. Dice, vabbè, già ci passa per questa volta. E sono partiti tutti in greffa. Tu pensa che c'erano 4 o 5 che erano deciso, tutti in moto, perché Giuseppe veniva, frequentava molto Alciso pure, oltre che essere amico mio e coso, veniva perché aveva amicizia in comune con gente del Ciso, capito? Giravano in moto, facevano, andavano in pizzeria insieme e cose. E siamo andati tutti insieme. Non ti dico l'incidente, che cosa si è trovato davanti questo mio amico. Quando Giuseppe ci è uscito, è andato a vederlo per burrone, cazzo, dice che c'era il cuore intero a battere. Sto dicendo che l'hanno subito coperto e non hanno fatto passare a nessuno, c'era stata bloccata da dopo subito la galleria lì della Roccia dell'Elefante sino all'altro incrocio, fate il conto, completamente, perché lui era lì, quindi non potevano passare le macchine. Un casino al giorno. Tu immaginate che Giuseppe eravamo assieme quando io ho comprato l'Hornet. È stato il primo, eravamo giù da Aldo, si era già trasferito a Predagnedda, non c'era più via Napoli. Quando ho comprato l'Hornet, quello che avete conosciuto sia tu che Antonio, l'ha voluto provare subito. Fammi vedere se tiene, mi Giuseppe, 99M, cioè attenzione, dobbiamo andare anche a fare benzina, sta attento. Ho fatto il giro lì di Predagnedda, io ho fatto due chiacchiere con Aldo e poi lui ha preso la macchina e io sono andato a casa con la moto, figurati tu. E mi aveva sempre promesso, ma poi qualche giorno ce ne andiamo a fare un bel raduno qui là, e invece non vai arrivato a fare un raduno con me. Che persona antipatica, ti sei distratto, mi sta chiamando. Cappa, non veniva in negozio ogni tanto, passava. Come fa? Cappa. Gli ha dato la sotto in gissato, ne combinava anche l'una. Ci sentiamo domani, buona giornata. Ehi, già, buona telefonata. Ehi, anche noi non ci tratteniamo. Molto, un altro passaggio, poi chiudo anch'io. Sì, ma era una bravissima persona, tu. Lui era così, era disinvolto, sempre sorridente, sempre con tutti, non aveva problemi mai con nessuno. Già l'ho visto qualche volta incazzato, ma per altre cose, però era una bravissima persona. C'era il mondo, il giorno del funerale. giornale di Giuseppe Carbone c'era il mondo, c'era il mondo. Già lo so, già. Io me lo guarda, me lo ricordo come se fosse oggi. Mi ha dato passare il negozio, allora era un via di gatto. Qua, un asce, inzinghissato. Chi so già lo sai che ha fatto un incidente brutto in macchina, sì. A me lo dici, uno ha fatto un incidente in macchina, più di uno ha fatto. L'ho trovato io un giorno in via Lombardo con la Peugeot. C'era una Peugeot tipo Rally, una cosa del genere, grigia. Grigio topo, o nera, adesso mi ricordo se non era, boh, non me la metto più. Stavo guidando col braccio gessato, e tu gli ho detto, cassetti troppo, ma chi mi ferma a me? Non mi ferma nessuno a me, no. Già, se non me lo ricordo già, era sempre usurico, sempre, non aggiungava mai. Sì, c'aveva il peso 205 Gutiman, mi pare, chissà che fine ha fatto questa macchina. Era da competizione, era particolare, fatta fare apposta. Sì, sì, perché lui con quella faceva la prepista. Capito? Sì, erano 1.400 a benzina. Una bella macchinetta, una bella scheggiera. Sì, sì, e io lo so, sono seduto un sacco di volte con lui. Però, ti ripeto, purtroppo l'incidente è andato così, non si sa come, però lui è andato dritto fuori con la moto. Però in macchina era molto bravo, molto attento e preparato veramente, la macchina sapeva portare Cattarelli. Vedi Sardegna, minchia, ha detto vai a via di vai. Ma ha seduto un paese, faramini, vai più a dice, via con questa buttata. Sì, mancanti, dove è andato, era anche troppo esagerata, per quello che gli capitavano le cazzate. Vabbè, però lì se tu leggi l'articolo è stata, non so se una distrazione sua, qualcosa che gli ha attraversato la strada, non si sa perché l'altro gruppo era tutto dietro, capito, casino, non so. Sta fatto che molto mette un schicciato, mette un cane, perché si è fatto a pezzi. E vabbè, pazienza. Dai Anto, io ti saluto, mi sta calando la palpebra, poi c'ho questi faretti puntati alla testa, a cazzo va giù un caldo. Già ci sentiamo domani, ok? Ciao, buonanotte, buonanotte a tutti gli ascoltatori pure. Ciao qua, buonanotte, ciao. Ciao Anto, buonanotte anche a tutti quelli che sono in ascolto, a domani, ciao. Ciao.